verso il voto. Un saluto ed un benvenuto agli ascoltatori di Radio 24. È la politica estera ed in particolare il ruolo dei nostri militari nelle missioni di pace ad animare la campagna elettorale. A far discutere sono le dichiarazioni dell'ex ministro della difesa Martino, che ipotizza un disimpegno in Libano, un ritorno degli italiani in Iraq ed un rafforzamento della presenza in Afghanistan. A dettare la linea del PDL, come prevedibile, è però Berlusconi, che chiarisce: in Iraq manderemo solo degli istruttori, mentre in Libano cambieremo le regole d'ingaggio. Così il cavaliere al TG3. Noi abbiamo votato la missione in Libano, abbiamo subito detto che non eravamo d'accordo sulle regole di ingaggio e quindi, se avremo responsabilità di governo, quando avremo responsabilità di governo, cambieremo queste regole. Un chiarimento, quello di Berlusconi, in linea con le posizioni di Fini. Andarsene dal Libano sarebbe sbagliato. Porsi il problema della quantità di militari impegnati in Libano è un'altra cosa. Berlusconi attacca poi gli avversari e si dice sicuro della vittoria. In particolare l'ex premier punta il dito sulla situazione economica. La crescita è pari a zero e i salari sono i più bassi d'Europa, spiega. Poi l'affondo a Prodi sulla politica estera. Ha avuto la faccia tosta di dire che l'Italia è ora rispettata, ma in 2 anni non è stato ricevuto alla Casa Bianca. Altro tema, il caso Ciarrapico e le polemiche sul fascismo. Il prossimo governo continuerà a combattere l'antisemitismo in Italia e in Europa, garantisce Berlusconi. Su questo tema è intervenuto da Milano intanto il vicepresidente della Commissione Europea Franco Frattini, candidato del Popolo della Libertà. È una polemica che è stata montata, evidentemente. Il Popolo della Libertà è assolutamente sulla linea e sulla lunghezza d'onda dei valori del popolarismo europeo. Tornando a Berlusconi, l'ex presidente del Consiglio ha difeso la legge Biagi, minimizzando la sua battuta sulla precaria. È stata tutta una montatura. La ragazza in questione, intanto Perla Pavoncella, è stata candidata nelle liste del PDL per il Campidoglio. Sul Libano e sulle critiche a Prodi sulla politica estera dell'Italia non si è fatta attendere la reazione del Partito Democratico. Alessandra Schepisi. Andare via dal Libano non se ne parla nemmeno. Se lasciassimo, le conseguenze sarebbero devastanti. Arriva in serata da Lugano il commento di Veltroni alle dichiarazioni dell'ex ministro della difesa Martino. Il candidato premier chiarisce qual è la posizione del Partito Democratico. Andare via dal Libano significa in questo momento non solo rinunciare ad una funzione che l'Italia si è attribuita dentro un contesto internazionale e dunque dare un colpo al nostro prestigio. Noi abbiamo delle responsabilità per il nostro ruolo, per la nostra posizione, per quello che siamo. Ce l'abbiamo come italiani e come europei e non possiamo fuggire da queste responsabilità. Affermazioni sconcertanti, incomprensibili, ridicole. Sono ancora più dure le repliche da Bruxelles di Prodi e D'Alema. Martino è un irresponsabile, dice il premier, che ricorda la missione in Libano è stata voluta da tutti. Affermazioni di una gravità enorme che denotano una profonda diversità nella concezione della politica estera. Per D'Alema, Martino è rappresentante di una destra che vuole danneggiare l'immagine internazionale dell'Italia. Se si vuole, per odio politico, smantellare questo patrimonio del paese, si dimostra di essere degli irresponsabili e delle persone non in grado di candidarsi a governare un grande paese come l'Italia. E intanto continua il tour di Veltroni in Nord Italia. In caso di vittoria, dice il segretario, proporremo un patto di consultazione con il capo dell'opposizione sulle questioni di interesse generale, ma non solo. La mia opinione è che nel prossimo Parlamento uno dei due rami del Parlamento debba essere presieduto dall'opposizione, che le commissioni di controllo debbano essere presiedute dall'opposizione. Insomma, dal leader del PD un appello all'unità del paese. L'Italia, dice Veltroni, deve voltare pagina. Basta odi, basta contrapposizioni. E la battuta di Silvio Berlusconi nei confronti della giovane precaria continua a tener banco tra le forze politiche. Una battuta figlia della superficialità, commenta Casini. Su questi temi non si scherza, dice il leader dell'Unione di Centro, che propone la sua ricetta contro la precarietà. Il tema della stabilizzazione è fondamentale, ecco perché nel nostro programma incentiviamo con bonus fiscale le imprese ad assumere a titolo definitivo. Ironico storace della destra. Certo, se Berlusconi si risparmiasse certe battute saremmo tutti più contenti, perché se un precario deve aspettare di sposare il figlio di Berlusconi, non credo che sia nella disponibilità del figlio di Berlusconi avere un harem, perché ce ne sono veramente tanti. Intanto si è aperta ufficialmente a Milano la campagna elettorale della sinistra arcobaleno. Impensabile un accordo con il PD dopo il voto, dice Bertinotti, che torna sulla questione dei salari. Nella metà degli anni 70 le retribuzioni italiane erano le più alte d'Europa, oggi sono le più basse o tra le più basse. E dunque bisogna cambiare la politica distributiva. La prima cosa da fare è indicizzare i salari. Se i salari perdono potere d'acquisto ogni anno, bisogna che almeno una volta all'anno come accade in altri paesi d'Europa, si faccia punto. E se gli stipendi, i salari e le pensioni valevano 100 al 1 gennaio, devono valere 100 anche il 31 di dicembre. Verso il voto termina qui in studio Vincenzo Miglietta.